i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Piccoli Fellers, il caso di spie e controspie nella Seconda Guerra Mondiale, di Carlo De Risio. Maggio 1941. Il SIM, Servizio Informazioni Militari, è riuscito a infilare due suoi agenti, come Usceri, a Palazzo Margherita, in via Veneto, sede dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, e a rubare il codice di cifratura americano, il Black Code. La sicurezza della rappresentanza diplomatica ovviamente ha proceduto a controlli e verifiche sul conto dei due, che tuttavia hanno dato prova di affidabilità, correttezza, attaccamento al lavoro. Direttore del SIM era l'allora colonnello Cesare Amé, già capocentro del servizio a Sarajevo, in seguito nel Nord Africa e infine nel Levante. Non un incaricato dunque, ma un professionista. Un riferimento su ciò che è accaduto si trova nel diario di Ciano, ministro degli esteri, genero di Mussolini, avendo sposato la figlia Edda. 30 settembre 1941. Il SIM è venuto in possesso del cifrario segreto americano e tutto quanto Phillips telegrafa viene letto dai nostri crittografi. William Phillips, ambasciatore statunitense a Roma. Un flash molto parziale, quello di Ciano. Ci scrive: ha avuto molta dimestichezza col generale Amé, deceduto alla bella età di 91 anni. Amé ricordava il nome di uno dei due agenti, Gherardi, il cui zelo nel lavoro in ambasciata gli era valsa la benevolenza del capo missione militare, colonnello Norman Fiske, proveniente dall'aviazione. Fiske e gli altri attaché occupavano lo stabile oggi sede del consolato. Per completare il quadro, il capo missione militare americano occupava un appartamento dell'hotel ambasciatori, prospiciente Palazzo Margherita. Un giorno, magari per un motivo banale o una necessità improvvisa, il colonnello Norman Fiske fece un salto all'ambasciatore, lasciando il mazzo delle chiavi, anche quella della cassaforte, sul tavolo di lavoro. Gherardi fu lesto a cogliere l'occasione, prendendo il calco delle chiavi su una mattonella di sostanza plastica non più grande di un pacchetto di sigarette. A Forte Braschi, comando del SIM, la mano passa al tenente colonnello dei carabinieri Manfredi Talamo, capo della sezione P, prelevamenti. È doverosa a questo punto una digressione. La sezione P viola, una certa notte, l'ufficio dell'addetto militare svizzero a Roma e mette le mani su un documento di straordinario interesse. Scoppia la bomba. Ancora dal diario di Ciano. 9 giugno 1942. Il nostro SIM ha scoperto un centro di spionaggio all'ambasciata tedesca. È già stato tratto in arresto il dottor Sauer, addetto culturale, che è confesso. Ha soltanto messo in chiaro che non agiva per denaro, ma in odio al nazismo e al fascismo. Passava informazioni all'addetto militare svizzero. Sembra che anche un colonnello germanico, aiutante di Rintelen, addetto militare, sia immischiato nella questione. Il duce ha commentato amaramente la cosa e teme che ciò possa danneggiare anche la posizione dell'ambasciatore von Mackensen. Bismarck, consigliere d'ambasciata, che ha parlato della cosa con Dajeta, non ha attribuito molta importanza all'accaduto. Dice che Sauer è un pederasta e che è stato indotto dal suo vizio a cadere in così grave reato. Che ci stava a fare a Villa Folkonski, sede dell'ambasciata tedesca, l'addetto alla sicurezza, l'ossuto colonnello delle SS, Eber Kappler? Colto in fallo, si presentò a Forte Braschi, pretendendo la consegna del traditore Kurt Sauer. Amé si rifiutò di riceverlo e un violento alterco avvenne tra Kappler e Manfredi Talamo. Sauer si era reso responsabile di tradimento in Italia e doveva rispondere alla magistratura militare italiana. Kappler se la legò al dito e si vendicò dopo l'attentato di Via Rasella. Anche Manfredi Talamo fu immolato alle Fosse Ardeatine. Amé era una inesauribile fonte di ricordi. La notte dell'effrazione del Black Code americano si trovava nel salotto di Isabella Colonna, levantina, centro sempre di pettegolezzi, ma anche di indiscrezioni di un certo spessore politico. Stava sui carboni ardenti il capo del SIM, mentre la sezione P entrava in azione nell'ufficio del colonnello Norman Fiske. In uno stabile adiacente a Palazzo Margherita, era stato allestito un efficiente, modernissimo centro per la riproduzione fotografica. Decine di tabelle cifranti e decifranti furono acquisite e l'indomani il tutto veniva preso in consegna dal generale Vittorio Gamba, capo della sezione crittografica del servizio. Trasmetteva dal Cairo con lo stesso black code il colonnello americano Frank Bonner Fellers, che aveva libero accesso al comando britannico del Medio Oriente, generale Claude Auchinleck, e soprattutto al comando della ottava armata, generale Neil Ritchie. Fellers trasmetteva al Dipartimento della Difesa. Il Pentagono era al di là da venire, senza dimenticare che il contributo americano alle operazioni nel settore libico-egiziano era già significativo, con i carri Grant e Stuart e un profluvio di mezzi autorizzati. Tre copie venivano fatte, con la sintesi di ciò che di notevole trasmetteva Fellers. Una per l'archivio del SIM, una per il Comando Superiore Africa Settentrionale e una veniva consegnata al Comando Forze Sud, cioè a Kesselring. Attraverso le antenne di Montecavo, sopra Frascati, cifrate con il codice tedesco Enigma, passano quotidianamente le intercettazioni del colonnello Fellers. Rommel per Celia chiama piccoli Fellers quelle preziose informazioni. David Kahn, lo storico della crittografia americana, ha scritto: «E che razza di dispacci erano! Fornivano a Rommel, fuori di ogni dubbio, il più ampio e il più chiaro quadro delle forze e delle intenzioni avversarie che un comando dell'asse abbia mai avuto, per tutta la guerra». Gli inglesi sostengono che il loro sistema elettromeccanico di intercettazione e decifrazione, ultra secret, era in grado di leggere le comunicazioni tedesche cifrate con Enigma. Come si spiega allora che non fu dato l'allarme e per così lungo tempo? Il 21 giugno 1942 la piazza forte di Tobruk cadde di schianto con 33.000 uomini. Gli artiglieri tedeschi trovarono intatte le postazioni allestite l'anno precedente durante l'assedio di Tobruk, con cataste di granate nei pressi. Si era giunti a una svolta. Mussolini aveva scritto a Hitler sollecitando l'attuazione dell'operazione C3 Hercules, attacco e conquista di Malta, come concordato in primavera nel convegno di Klesheim. Il cancelliere e Führer era però salito sul cavallo di Orlando. «Consentite la prosecuzione dell'offensiva, finché l'armata ritenga di poterlo fare con le proprie forze. La dea della fortuna passa accanto ai condottieri una volta soltanto». Hitler non intendeva privarsi di una sola divisione corazzata. Il 28 giugno iniziava, sul fronte russo, l'operazione Azzurra, col duplice obiettivo di Stalingrado del Caucaso per conquistare la zona petrolifera di Grozny. Caddero in successione Marsa Matruk, El Daba, Sidi El Rahman. Non un piccolo Fellers, bensì un'allarmatissima valutazione venne trasmessa a Washington dal colonnello Fellers. Al 27 maggio i britannici avevano in Medio Oriente 1564 carri, che oggi debbono essere rimpiazzati al 100%, artiglieria perduta, il 50%. Morale della ottava armata è bassissimo. Le truppe hanno perduto la fiducia nei capi. Così pure è basso il morale della RAF. La marina è impotente. Se Rommel ha intenzione di prendere il Delta, ora è il momento. Fronte di El Alamein, 10 luglio 1942. Un battaglione della nona divisione australiana attacca alle 3.40 la posizione tenuta dalla divisione italiana Sabrata, appena inserita in linea e non bene orientata. Nei pressi è attestata la Hoc Compagnie e la Compagnia Intercettazione dell'Armata. L'improvvido ordine di un superiore ha spinto in avanti una unità che doveva rimanere nel terreno retrostante. L'attacco degli australiani ha successo. La Hoc Compagnie è travolta e chi la comanda, il valente capitano Alfred Sebom, rimane mortalmente ferito. I torpedoni della speciale unità vengono perquisiti palmo a palmo e si scoprono tracce delle intercettazioni di Fellers. La falla nelle comunicazioni alleate è stata scoperta. Frank Bonner Fellers, scosso per l'accaduto, viene richiamato negli Stati Uniti. L'esito dell'inchiesta, che certamente ci fu, non è mai stato reso noto. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.